La provocazione del Gian Bologna nei confronti delle imposizioni del cardinale Borromeo può essere considerato una sorta di atto goliardico, uno scherzo che di certo sarebbe stato approvato da coloro che dell'irriverenza nei confronti dell'ordine costituito facevano, e fanno, uno stile di vita. I goliardi, appunto. L'appropriazione del termine goliardo da parte di taluni movimenti studenteschi si verificò proprio a Bologna sul finire dell'Ottocento, nell'ambito dei festeggiamenti per l'ottavo centenario della fondazione dell'università. L'impulso fu dato niente meno che da Giosuè Carducci, all'epoca docente presso la locale facoltà di lettere, che si era entusiasmato di fronte ai movimenti studenteschi tedeschi e alle pittoresche uniformi delle loro confraternite. L'origine della goliardia, tuttavia, è ben più antica e va ricercata nel boom economico del XII secolo e alla maggiore mobilità sociale generata dallo sviluppo delle prime università. Agli studenti nobili, infatti, si affiancò una schiera di studenti più poveri al loro seguito, che magari sbarcavano il lunario tramite ogni sorta di espedienti, per esempio facendo gli artisti di strada, e che non potevano permettersi di frequentare con continuità le lezioni, ma si spostavano di ateneo in ateneo per seguire il loro maestro preferito o per assistere alle lezioni di docenti famosi. Difficilmente inquadrabili all'interno di una definita classe sociale, questi studenti venivano pertanto definiti clerici vagantes, intellettuali vagabondi che per la loro condizione di indigenza erano esclusi dai ruoli istituzionali e da vere e proprie possibilità di carriera. I goliardi del Medioevo erano naturali oppositori del potere costituito, dell'ipocrisia e della morale comune. Erano strenui sostenitori della laicità e le loro armi principali erano la satira e l'ironia. Si trattava sostanzialmente di spiriti liberi, autentici anarchici ante litteram che nei loro componimenti poetici inneggiavano alle virtù della giovinezza, all'amore romantico, alle gioie delle libagioni, al vino e al gioco d'azzardo. I più celebri sono i Carmina Burana, che, sebbene non sia noto ai più, sono straordinari esempi di componimenti goliardici, a dispetto del carattere solenne impresso dalla lingua latina e dalle maestose melodie, magnificamente reinventate nel 1937 dal compositore Karl Orff. Il famosissimo O Fortuna è un inno alla dea Fortuna, intesa nella più vasta accezione latina di sorte, e ai suoi imprevedibili mutamenti, da favorevole ad avversa. Intellettuale di riferimento per i clerici vagantes era il filosofo francese Pietro Abelardo, vissuto tra il 1079 e il 1142, soprannominato Golia dal suo più celebre oppositore, Bernardo di Chiaravalle. All'epoca l'epiteto Golia sottintendeva una natura addirittura demoniaca. Per tutta la vita Golia Abelardo si oppose alle imposizioni dottrinali del Papa, facendosi promotore di un pensiero rivoluzionario secondo il quale la ricerca del piacere, fortemente osteggiato dalla Chiesa, non costituiva peccato perché naturale inclinazione dell'essere umano. Secondo alcuni, il termine goliardo deriva proprio dalla contrazione del suo nome, ma il dibattito sull'etimologia è ancora aperto, soprattutto alla luce del fatto che la parola arcaica francese goliard significava goloso e i goliardi sono sempre stati sicuramente ghiotti di esperienze di vita. Per la sua stessa natura, per l'impossibilità di porre autentiche radici e a causa dell'incessante opera di condanna ed emarginazione operata dalla Chiesa, era inevitabile che il movimento dei clerici vagantes si estinguesse con il passare del tempo. Ma proprio dalla loro esperienza, nel corso del 600 e del 700, si posero le basi di una versione maggiormente istituzionalizzata della goliardia, con la nascita delle prime accademie studentesche in tutta Europa. Il primo episodio goliardico di cui esista documentazione storica risale tuttavia al 1820, con Ersilio Michel che racconta di un certo Ricci, studente livornese, che salì su un tavolino del caffè del Lussero a Pisa per leggere un componimento satirico. In Pisa gli scolari clamorosi e amanti del disordine composero una satira contro quei compagni loro che, sdegnando di seguirli nelle sregolatezze, cercavano di vivere modestamente. L'autore figurava che questi scolari divisi dal resto dei sussurratori si adunassero in casa di uno di loro per formare una specie di governo monarchico fra questo ceto. Fanno poi che il re dia delle cariche di corte e istituisca un ordine cavalleresco detto dei somari, satirizzando per nome tutti coloro a cui si distribuiscono gli impieghi. Un certo Ricci, studente livornese, in pubblico caffè del Lussero salì sopra un tavolino e lesse questa satira. Il giorno dopo ebbe 2 ore di tempo a partire. In questa occasione alcuni intellettuali non mancarono di deprecare questo atteggiamento. Tra essi ricordiamo Giacomo Leopardi, che nello Zibaldone accenna a questo tipo di quartine scherzose, definendole penose. Sontuosi i festeggiamenti goliardici in occasione dell'ottavo centenario dell'Università di Bologna. In quell'occasione le delegazioni di studenti degli altri Atenei italiani portarono un dono ciascuno e di certo il più gradito fu quello dei torinesi, che portarono un'enorme botte di Barbera su un carro trainato da buoi inghirlandati. A cavalcioni della botte brindavano uno studente travestito da Bacco, una giovane baccante e un satiro cornuto con tanto di gambe caprine e zampogna. A seguito del secondo dopoguerra nacquero i moderni ordini goliardici, con gerarchie interne ispirate al sistema feudale medievale, con al vertice un capo ordine. Se l'immaginazione corre alle confraternite del film Animal House, non siete molto lontani dalla realtà. Gli ordini goliardici, a Bologna chiamati balle, hanno più di un'affinità con le confraternite dei campus americani, sbronze colossali comprese. Segno di riconoscimento dei goliardi moderni è l'abitudine di aggirarsi indossando abiti medievali, il tradizionale berretto studentesco, la feluca e i bolli con i quali viene attestata l'anzianità di un appartenente all'ordine. La feluca ha un colore diverso a seconda della facoltà di appartenenza: rosso per gli studenti in medicina, blu per quelli di giurisprudenza, bianco per lettere, verde per le facoltà scientifiche, matematica, fisica, scienze naturali, giallo per economia e nero per ingegneria. Più è decorata e più è elevato il prestigio di colui a cui appartiene. La goliardia è particolarmente sentita in Emilia e in Toscana, con il primato bolognese di ben 13 balle, tutte con nomi pittoreschi e irriverenti, che beffano i nomi degli ordini cavallereschi del passato e delle moderne istituzioni, tra i quali non si può non ricordare il Sacer Venerabilisque Fictonis Ordo, SVQFO, o Sacro e Venerabile Ordine del Fittone. La goliardica balla a Montecristi, la balla di Montecristo, la prima a formarsi dopo che la goliardia era quasi scomparsa durante i moti studenteschi degli anni 60 del secolo scorso, e il Sacre Oce Congregatio Magnifica et Lustrissima, abbreviato con l'acronimo SOCMEL. Travestire la statua del Nettuno è una delle burle più frequenti da parte dei goliardi. I meno giovani tra i lettori ricorderanno che negli anni 80 del secolo scorso misero al dio del mare pinne e maschera da sub, con tanto di boccaglio. Un'altra celebre burla risale agli anni 50, quando un piccolo esercito di goliardi si presentò in centro a Bologna agghindati come degli alpinisti, per poi esibirsi in una sorta di scalata orizzontale di via Rizzoli. La memoria del fittone.